24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 18 minuti e 24 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Cara Maria Latella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Chissà in quali sezioni finivano loro. Sì, a scuola. Adesso ne parliamo, e intanto fammi dare i riferimenti. 349-238-6666 per gli sms e messaggi su WhatsApp, lo sanno benissimo, però glielo ricordiamo. Anche messaggi audio, li prendiamo molto volentieri, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Parleremo di immigrazione più avanti, perché ci sono due questioni che si incrociano. Una è quella dei decreti sicurezza, che il PD vuole modificare, vuole riscrivere le norme sull'immigrazione, e l'altro è emerso ieri con le parole della ministra Luciana Lamorgese, che ha parlato di una possibilità di regolarizzazione per gli immigrati che abbiano un contratto di lavoro. Parole che sono arrivate dopo quella storia raccontata da Repubblica, e che qui tu avevi letto, la storia di un gruppo di dipendenti, di immigrati che erano stati regolarizzati da una società, la quale poi però aveva dovuto licenziarli perché non c'erano più i presupposti legati a causa del decreto sicurezza, del decreto sicurezza. La stretta sì. sui permessi umanitari. Ci scrive da Piacenza un'ascoltatrice, dice: nel 98 ho usufruito della legge turco-napolitano, la famosa sanatoria. Oggi, orgogliosamente cittadina italiana, sono diventata insegnante presso le scuole medie. La regolarizzazione restituisce dignità e permette la crescita del paese. Abbiamo anche molti messaggi invece che dicono: no ragazzi, non è proprio il momento. Faremo sentire anche quelli e leggeremo anche quelli, non vi preoccupate. Leggiamo tutto, ma insomma fa piacere però vedere alcune situazioni che danno proprio l'idea di integrazione. Questo vale per le seconde generazioni. Capita appunto di trovare ragazze che sono magari arrivate bambine con i loro genitori da paesi lontani, e che tu cogli nel loro sguardo il dubbio. Questa persona mi sta guardando perché io ho un colore della pelle diversa, o perché mi sente parte della sua comunità? E a seconda di come lo sguardo arriva a questi ragazzi, sto parlando di una cosa che mi è successo ieri, e per questo che mi ha colpito, e questi ragazzi si sciolgono o rimangono chiusi in se stessi. Io penso che questi giovani neo-italiani avrebbero bisogno di incontrare sguardi sorridenti migliori, sguardi migliori. Senti, è parzialmente collegato al tema dell'immigrazione, perché c'è anche un elemento di questo tipo, no? Nella vicenda naturalmente della scuola, l'istituto di Via Trionfale, e che cosa è successo, ormai gli ascoltatori lo sanno, questa scuola con tre plessi scolastici, che descrive sul suo sito, una descrizione rimasta là a quanto pare addirittura dal 2011, descrive i tre plessi scolastici sulla base del ceto sociale al quale mediamente la gente che vi va appartiene, quindi ceto medio-basso, ceto medio, come si diceva prima, ammesso che questo ceto medio esista ancora, e ceto invece alto, una scuola nella quale vanno queste persone, e vanno anche per esempio i figli delle colf, delle badanti e così via. Una questione che ha suscitato una discreta polemica. Sì, ha suscitato molta polemica per, diciamo, il metodo maldestro col quale questa realtà è stata comunicata, perché il ricorso a un lessico molto, molto datato, molto anni 50, ceti medio-alti, ceti medio-bassi. Allora, diciamola tutta. Quando dalla scuola media di Sabaudia, piccolo centro di 10.000 anime del Basso Lazio, mi sono stata iscritta al liceo classico Dante Alighieri di Latina, non è che mi hanno messo nella sezione A, che era la sezione con i professori migliori e appunto gli esponenti del ceto medio-alto di Latina, stiamo parlando appunto di alcuni decenni fa, no. Mi è andata bene perché mi hanno messo però nella sezione B, che aveva degli eccellenti professori e che poi, col senno del poi, appunto, si è rivelata essere una sezione favolosa, con compagni di scuola che erano e sono brillantissimi, ottimi insegnanti, eccetera. Per cui, nella sostanza, questa selezione c'è sempre stata. Noi lo sapevamo allora che la sezione A era quella, diciamo, dei fighetti. Noi della sezione Maria, B eravamo Maria, un po' ti posso dire la mia impressione è che su questa vicenda, su questa storia della scuola, ci sia un filino di ipocrisia, nel senso che allora è chiaro che una cosa di questo genere non deve apparire sul sito della scuola, non deve apparire su un documento ufficiale. È vero anche dall'altra parte che tutti lo sanno perfettamente e la scelta dei genitori passa inevitabilmente anche da questo. Abbiamo un WhatsApp che ci è arrivato stamattina, sentiamolo, va. Se vogliamo veramente migliorare la qualità della scuola italiana elementare, della prima scuola italiana, il concetto di inclusione con gli stranieri, l'unico modo è agire sulla qualità degli insegnanti. Mia moglie è un insegnante, mio figlio è in prima elementare. Nella classe di mio figlio ci sono solamente due stranieri, ma siccome le insegnanti sono pessime, mio figlio non va avanti, io mi lamento lo stesso. Se invece l'insegnante fosse brava, riuscirebbe serenamente a imparare sia bambini di italiani che bambini stranieri. Temone questo, eh? Tra l'altro tu sei figlia di insegnanti o ricordo sì, male, Maria? Sono figlia di insegnanti e devo dire la verità che c'era, stiamo sempre parlando di alcuni decenni fa, ma insomma c'era la corsa, no, a Sabaudia, quando si trattava della prima elementare, per iscrivere i bambini, per far andare i bambini in classe con mia madre, che aveva la fama di essere una delle migliori insegnanti. Ed è, questo è durato per decenni. Ora, che cosa si può dire a un genitore che cerca un buon insegnante per il figlio? Tutti siamo interessati a questo. Ha ragione il nostro ascoltatore, quanti più insegnanti preparati ci sono, tanto più migliora la scuola. Però fammi dire una cosa che è il mio chiodo fisso da decenni. Il chiodo fisso da decenni è che la scuola migliora se noi diamo pari opportunità del pomeriggio a tutti i ragazzi, perché la differenza la fa il pomeriggio. Se tu un bambino al pomeriggio gli fai fare nuoto, pianoforte, il rafforzamento dell'inglese, l'educazione all'arte, come fanno i figli della buona borghesia italiana e non solo, è chiaro che questo bambino avrà una marcia in più. Allora, perché avrà maggiori possibilità. Però, non abbiamo i soldi per fare il pomeriggio a scuola, bisogna trovarli. Perché il pomeriggio a scuola fa la differenza. Concordo relativamente. Penso che la differenza la faccia la qualità degli insegnanti, come ci dice, come ci dice l'ascoltatore. Tutte e due le cose. No, un pomeriggio con insegnanti di scarsa qualità serve a poco. Ma è sempre meglio che lasciare i bambini da soli per ore davanti alla TV o davanti ai videogiochi, perché magari tutti e due i genitori lavorano e questi bambini stanno da soli. La politica, beh, tutte le tensioni interne alla maggioranza. Sentiamo questo Renzi sulla prescrizione ieri da Vespa, va, via. Paradossalmente, via. Forza Italia e la Lega oggi hanno votato insieme a noi. E il PD, che era il partito che aveva fatto quella legge con Andrea Orlando, ha votato con buona fede. Stanno i governi insieme. Ma scusi. Io vorrei mandare un abbraccio di solidarietà a tutti i riformisti del PD che stanno inseguendo i grillini. Cioè, si diceva, PD e 5 Stelle faranno un governo insieme perché almeno il PD potrà in qualche misura guidare il percorso di cambiamento dei 5 Stelle. Vespa. Sulla prescrizione è avvenuto esattamente il contrario. Eh beh, una discreta spaccatura, l'ennesima se vogliamo, sì, l'ennesima. Tra il PD è interessante che per esempio il ministro Provenzano, ma anche altri nel Partito Democratico, dicano esattamente il contrario, cioè non è Forza Italia che ha votato con Italia Viva, ma è Italia Viva e Renzi che hanno votato con Forza Italia. Ma poi del resto il percorso mi sembra abbastanza netto, perché da un lato appunto Renzi sulla prescrizione ha votato come Forza Italia, sul voto che riguarda la Gregoretti esprime dei dubbi, nel senso che ha detto Salvini può aver sbagliato, ma qualche dubbio che in un processo per sequestro di persona si possa arrivare a una sentenza di condanna c'è, e comunque insomma anche su questo. Sulla revoca delle concessioni autostrade Italia Viva è schieratissima per il no, cioè difende la società Autostrade. Insomma, i dubbi esposti da più di un esponente del PD, poi magari lo chiederemo anche a Roberta Pinotti, che sotto Renzi, Italia Viva si stia preparando, laddove un giorno si andrà alle elezioni, a fare la gamba centrista della Lega, ci sono tutti, si sta staccando dopo aver voluto lui, è stato lui l'artefice del governo con i 5 Stelle, dopo averlo creato, si sta staccando. Vedremo. Mi sembra strana l'idea di una gamba centrista della Lega. Detto ciò, poi molto dipenderà da quello che succede sul fronte della legge elettorale. Oggi lo ricordiamo, la Corte Costituzionale deve decidere se dare il via libera al referendum con il quale la Lega mira a eliminare la quota proporzionale dell'attuale legge elettorale, rendendola un maggioritario puro, e a quel punto i giochi cambiano, perché se hai il proporzionale tutti giocano da soli e poi si vede in Parlamento, se hai il maggioritario, insomma, le cose cambiano. Vedremo che cosa succederà quando ci sarà la scelta. Poi ci sarà da aspettare eventualmente il referendum, ovviamente. Una pausa e poi torniamo e parliamo di immigrazione. Mattino. Ed eccoci di nuovo dunque per parlare di immigrazione, di decreti sicurezza, ma anche delle parole di ieri della ministra Lamorgese. Siamo con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Molinari. Buongiorno a tutti. Roberta Pinotti, senatrice, responsabile sicurezza del Partito Democratico. Pinotti, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Eccoci qua. Prego Maria. Eccoci, buongiorno. Allora, prima domanda per il capogruppo della Lega. Citavo prima l'episodio riferito appunto da vari quotidiani dei 120 immigrati che hanno lavorato in un'azienda di logistica, Molinari, per sopravvivere con uno stipendio, ma anche per ottenere il permesso di soggiorno. Ebbene, saranno licenziati a causa della cancellazione della protezione umanitaria che è prevista dal primo decreto sicurezza di Salvini. Secondo lei, Molinari, è giusto? Non converrebbe alla nostra comunità tutta favorire l'integrazione di quegli immigrati che cercano lavoro e lavorano magari anche bene? Ma il nostro sistema già favorisce l'integrazione degli immigrati che hanno diritto a stare in Italia, perché vede, la protezione umanitaria non è stata cancellata dal primo decreto Salvini, è stata modificata. Lo stesso ministro Lamorgese, proprio l'altra sera in televisione, ha ricordato come c'era un'anomalia di sistema in Italia. In Italia avevamo quasi il 30% di permessi umanitari per gli immigrati irregolari che arrivavano in Italia, mentre nel resto d'Europa si aggira intorno al 3-4%. Quindi questo cosa significa? Significa che la normativa italiana sul permesso umanitario era di manica molto più larga per permettere di tenere qui più gente rispetto a quello che le regole internazionali prevedono, cioè rispetto a quello che è previsto dalla protezione internazionale, tanto per semplificare chi fugge davvero dalle guerre o da situazioni di criticità particolare. Cosa fa il decreto Salvini 1? Il decreto Salvini 1 riduce le maglie della protezione umanitaria, non la cancella, quindi c'è comunque una garanzia, una tutela maggiore che in altri paesi europei, ad esempio per chi fugge da particolari condizioni climatiche estreme, per chi ha subito violenze, per chi vive in paesi dove può essere incarcerato. Insomma, ci sono tutta una serie di fattispecie specifiche. Chi non rientra in queste fattispecie semplicemente non ha il diritto a stare in Italia. Cioè, dal mio punto di vista non bisogna invertire l'ordine dei problemi. Non è che noi dobbiamo allargare le maglie della protezione e allargare le maglie del diritto a stare in Italia per chi clandestino è, diritto non ce l'ha, perché questi lavorano o perché ci sono le cooperative che devono andare avanti con l'integrazione sociale o perché c'è qualcuno che rischia il posto di lavoro negli SPRAR perché non può più fare l'insegnante italiano. Non è che noi dobbiamo permettere a tutti di stare qua per aumentare l'economia, noi dobbiamo far stare qua chi ha diritto a starci e utilizzare le risorse come prevede il decreto Salvini 1, che mantiene il sistema SPRAR e prevede che le risorse dello SPRAR siano investite soltanto su chi ha la protezione internazionale, per integrare coloro che resteranno in Italia e che avranno titolo a stare in Italia per gli anni seguenti. Prima c'era un sistema in cui si buttavano i soldi per tenere qui tutti, perché si lasciava stare in Italia molta più gente di quella che poteva starci. Poi arriviamo da Pinotti, però si faccia fare un'altra domanda da me, Molinari, che ha a che fare con i dati di fatto, lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte ci racconta però di tra una cifra oscillante tra i 600.000 e gli 800.000 immigrati che sono irregolarmente nel nostro paese, dei quali alcuni vivono e lavorano qua ormai da anni, penso per esempio a questa stima che viene fatta di 200.000 tra colf e badanti. Allora, visto che il sistema delle espulsioni è difficilissimo e lo sappiamo, lo avete testato con mano mentre eravate al governo, non è il caso nei confronti di tutta una serie di persone di ragionare veramente su una sanatoria come sembra che si stia facendo? È quello che ha detto la Morgese. La Morgese ieri ha annunciato che lavorerà in questa direzione. Dal nostro punto di vista è un gravissimo errore, perché se in Italia sono calati gli sbarchi e gli arrivi nell'ultimo anno, grazie al lavoro del ministro Salvini, è perché si è data l'idea che ci sono regole serie e rigide in Italia, e che in Italia non è più un paese dove si può entrare senza pagare i dazi, dove c'è un sistema che adesso è regolato ed ha delle maglie più strette. Se noi facciamo una sanatoria, quindi contraddiciamo quello che è stato fatto negli ultimi anni, questo è un messaggio devastante che non farà altro che portare ancora più gente ad arrivare in Italia, perché saprebbe perfettamente che alla lunga, per il deficit di sistema, il modo di restare qua si ottiene. Questo non è degno di un paese serio. Quello che bisogna fare è organizzare i flussi, esattamente come fanno tutti gli altri paesi del mondo, far entrare la gente che serve sulle basi delle richieste economiche del nostro paese. Lei citava il caso delle COP, quello ad esempio è un lavoro dove effettivamente gli italiani non si impegnano in quell'attività, si deve fare una stima annuale di quante persone servono e si aprono le frontiere in maniera legale per far arrivare qui persone che vadano a fare quel lavoro, esattamente come succede in tutto il mondo. Non è che la logica può essere che si arriva clandestinamente sul barcone senza documenti, si ottiene la protezione umanitaria magari inventandosi delle storie e poi alla fine in qualche modo si viene a regolare il tasso perché si è qua. Questo non è nemmeno un paese serio. Senatrice Pinotti, quello che dice Molinari, e cioè che quasi tutti i paesi europei attuano, e non solo in Europa, attuano una selezione dei migranti. La Germania, per esempio, quando aprì le porte, la famosa e discussa decisione di Angela Merkel che aprì le porte ai siriani, decisione che è tanto costata alla cancelliera, tuttavia sapeva di far entrare in Germania dei migranti altamente scolarizzati, spesso laureati, eccetera. L'accusa che viene rivolta alla sinistra, appunto, è che in tutti questi anni invece l'Italia aveva aperto le frontiere senza guardare ai reali bisogni, forse perché appunto serviva manodopera a bassissimo costo, in qualche caso, come dice il sociologo Luca Ricolfi, trattata quasi da schiavi, così come succede nei campi ai braccianti africani per la raccolta dei pomodori al sud o altro genere di utilizzo di questa manodopera a basso costo. Lei pensa che parlare di immigrazione senza aver messo a punto qualcosa di diverso rispetto agli anni passati sia qualcosa che fa bene al Partito Democratico e alla sinistra? Beh, non è vero questo, non stiamo mettendo a punto cose nuove, però mi permetta di rispondere prima ad alcune cose che ho sentito dal collega. Lei è partita dal caso che avrei citato io questa mattina, cioè il caso di un imprenditore che investe per anni per formare dei lavoratori, sono lavoratori immigrati che hanno la protezione umanitaria. Nel momento in cui potrebbero essere assunti non esistono regole perché questo avvenga, e di fatto l'imprenditore che ha investito perde il denaro che ha investito e queste persone si trovano non a tornare ai loro paesi di origine, ma a tornare in una situazione di incertezza umana e quindi anche poter essere preda di percorsi, diciamo, delinquenziali che nessuno si augura, ma che possono accadere, proprio perché non si è creato un sistema che divide la regolarizzazione da quella che è l'immigrazione illegale. Perché io ricordo che la sanatoria più ampia è stata fatta da un ministro leghista, dal ministro Maroni, perché quando ci si confronta poi con la realtà è diverso rispetto a fare propaganda. Il ministro Salvini in campagna elettorale parlava di 600.000 clandestini. Quando si è trovata al Ministero degli Interni ha detto ma non sono 600.000, in realtà sono 90.000, perché si era accorto che in realtà molti di questi non avevano ancora un percorso regolarizzato, ma di fatto lavoravano e erano quanti sono stati rimandati indietro? Perché poi questo è il problema. Poco più di 3.000 nei primi 8 mesi del 2019, finché è stato ministro Salvini. Perché? Perché poi i rimpatri sono lunghi e difficili. Allora, se noi vogliamo ragionare fuori dalla propaganda, e mi dispiace dirlo, ma i decreti sicurezza di Salvini questo hanno fatto, e io non li chiamerei sicurezza, perché nel momento in cui tu aumenti le persone che rimangono in Italia, perché non li rimandi via, non lo ha fatto Salvini, e e non sono dentro a percorsi di integrazione, come potevano essere gli SPRAR per quelli che erano in attesa di sapere se avevano l'autorizzazione a rimanere in Italia con lo status di rifugiato oppure no, o come appunto erano percorsi di questo tipo di lavoro, ma di fatto li metti in un processo di clandestinità che non ha futuro, che non ha speranza, dove in realtà aumenti l'insicurezza delle nostre città, aumenti le persone che stanno davanti alle stazioni, che dormono sotto i ponti, perché non produce percorsi di possibile regolarizzazione. Allora, ci vuole una nuova politica dell'immigrazione, certo, che preveda anche l'aumento dei decreti flussi, che non vuol dire che entra chi vuole. È chiaro che un paese deve decidere quali sono le sue capacità di assorbimento, perché deve essere una cosa compatibile con il paese, con lo status di vita dei nostri cittadini, ma non c'è dubbio che oggi i decreti flussi hanno numeri bassissimi, e anche quando il collega diceva, per esempio, ci sono molte collaboratrici domestiche che sono donne, per lo più donne, diciamo, che vengono da altri paesi, che potrebbero essere regolarizzate, bene, questo lui non l'ha chiamata sanatoria, chiamiamola come vogliamo. Io non amo il termine sanatorio, perché in realtà dovremmo finire da una politica emergenziale dell'immigrazione, dovremmo pensare ad una politica di prospettiva, che sa, perché così è, perché non può esistere, perché non esiste nessun altro paese europeo, perché se parliamo con gli imprenditori ci dicono che il bisogno di forza lavoro c'è, perché c'è una crisi demografica del nostro paese, potrei aggiungere mille cose, c'è la disponibilità e la possibilità in questo paese di accogliere anche persone che vengono da altri paesi, ma certo in percorsi legali, immettendoli nei percorsi formativi e nei percorsi lavorativi. Però tutto quello che non è stato fatto negli anni passati, certo che le ricordo però, Maria Latella, che gli anni passati noi abbiamo vissuto la guerra in Siria, la crisi libica, il Daesh all'interno di Iraq, cioè c'era una situazione particolarmente complicata nel mondo che ha spinto molte persone anche a scappare da situazioni difficili, ma ancora oggi però non neghiamocelo, c'è tutta la crisi climatica dell'Africa, quindi il problema esiste e va governato, e al di là dei proclami è un problema complicato, ma che va gestito tenendo insieme umanità e legalità. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, e anche i messaggi WhatsApp, adesso ne leggeremo qualcuno e magari ve ne faremo anche ascoltare qualcuno. Intanto una pausa. Mattino. Non ho nulla contro i migranti, ma non ho nulla contro i rumeni, i bulgari. Per me la gente e le persone sono tutte uguali. Però in un paese che non riesce a far lavorare i propri ragazzi, non mi dite che gli extracomunitari vanno a fare i lavori che i nostri ragazzi non vogliono fare. No, i nostri ragazzi non vogliono lavorare per un euro l'ora. Me lo immagino solo io, uno scenario nel quale verranno create delle società fittizie apposta per in qualche modo vendere poi i permessi di soggiorno e quindi la cittadinanza a degli immigrati irregolari. Se non reintroducete la meritocrazia e le punizioni per chi non rispetta le regole, va tutto a catafascio. La gente arriva, in qualche modo si piazza, sa che sarà condonata, i bambini a scuola vanno, non portano neanche i libri, tanto sanno che non servono. Ci vuole ordine, disciplina, serietà. Ordine, disciplina e serietà, ma forse questo però era riferimento, questo era il riferimento all'argomento che abbiamo trattato prima, credo, quello della scuola. Era riferito agli immigrati, perché molti ricordano alcune dichiarazioni, ma gli stessi agenti di polizia le riferivano, se le ricorderanno sia Molinari che Pinotti, molti agenti di polizia hanno spesso allargato le braccia, perché quando arrestavano magari un migrante, non è detto proveniente dall'Africa, anche da paesi che sono a noi molto più vicini, e i quali dicevano: vabbè, ma tanto adesso mi arrestate e tra due giorni mi rimettete fuori, che mi frega. Ed è uno dei temi che ha sollevato, a mio parere giustamente, la ministra dell'Interno la Morgese dicendo che sottoporrà o l'ha già sottoposto al Consiglio dei Ministri. Aggiungo una domanda ulteriore per Pinotti, che è questa. Lei ha detto, insomma, smettiamola con la parola sanatoria perché dà un po' l'idea di una situazione emergenziale. Però, Pinotti, devo dirle la verità, io fatico a non vedere, se i numeri sono questi, no? 200.000 tra, per esempio, colf e badanti che sono irregolari, sconosciute al fisco, in una situazione di incertezza lavorativa completa, presenti sul nostro territorio senza che quasi ne siamo a conoscenza. Beh, francamente, a me questa pare una situazione emergenziale. Quindi non so come intendete intervenire. Quello che sto dicendo è che invece che farlo una tantum, con delle sanatorie, con dei numeri anche molto significativi, ricordavo prima quello che ha fatto. Sì, ma concludo la domanda, Pinotti, come intendete agire come maggioranza? Dal punto di vista, per esempio, del problema che lei poneva, attualmente il decreto flussi, cioè quello che dice quali sono i numeri di possibili entrate di immigrati in Italia in un percorso legalizzato, quindi dice di quante persone potremmo avere bisogno, in realtà dei numeri bassissimi, perché c'è sempre stato il problema, come un po' si capiva anche dall'intervento del collega, che se tu apri quelle maglie, in realtà rischi di dare un messaggio che lasci aperte le porte a tutti. Non è così, perché quelle sono le maglie regolari, quelle sono quelle che lo Stato deve definire sulla base effettivamente delle proprie esigenze. Ho ascoltato anche la vostra ascoltatrice che diceva non è vero che non ci sono i lavori per i nostri giovani, e non c'è dubbio che in Italia c'è una disoccupazione giovanile molto alta, però l'esempio da cui siete partiti in questa trasmissione per un lavoro di facchinaggio, questo imprenditore dice io non li ho trovati i giovani italiani, quindi c'è uno spazio, avete citato quello più evidente per quanto riguarda le persone che hanno bisogno di assistenza agli anziani, di aiuti domestici, moltissime sono le donne immigrate. Allora, vogliamo essere più realistici e dire effettivamente quali sono i bisogni, e dentro a percorsi regolari che consentono quindi poi di essere anche contribuenti, perché poi questo è, cioè gli immigrati che lavorano in Italia regolarmente diventano contribuenti di questo paese e contribuiscono complessivamente alla fiscalità della nostra nazione. Allora dentro a questi percorsi, uscendo fuori dalle paure della propaganda e dicendo mancano pochi minuti, e io vorrei chiedere a tutti e due, però molto rapidamente, se il 26 gennaio in Emilia Romagna e in Calabria vincesse il centrodestra Molinari, Salvini dice va bene, porto la lettera di sfratto a Conte. Mi pare di capire che tutto il governo abbia chiarito che invece queste regionali sono regionali e dunque non c'è nessun rischio per il governo stesso. A quel punto, quale sarà la strategia della Lega? Continuerete a fare opposizione su quali argomenti? E per quanto tempo, secondo lei, il governo Conte reggerà? Ci saranno poi altre elezioni regionali, ma insomma, se il principio è che una elezione regionale non cambia la struttura del governo centrale, questo varrà anche per le elezioni regionali successive. Ma guardi, il governo Conte, chiaramente la maggioranza possono fare quello che ritengono. Diciamo che in una situazione politica normale, quando i partiti della maggioranza dalle elezioni politiche del 2018 perdono tutti gli appuntamenti elettorali che ci sono, e nel caso in cui dovessero perdere in Emilia Romagna capiamo tutti la portata dell'evento, cioè già il fatto che si stia discutendo che la Lega possa vincere in Emilia Romagna, che sia un testa a testa, questo dimostra la situazione di enorme difficoltà del Partito Democratico, per non parlare del 5 Stelle che ormai dal punto di vista elettorale non esiste più. Quindi loro possono anche far finta di niente, quindi restare barricati nel palazzo e non interessarsi di quello che è il pensiero del paese reale, ma del resto lo dimostrano anche con le dichiarazioni che fanno. Cioè, tutta questa discussione sull'immigrazione denota la distanza dalla realtà. Cioè, le telefonate che avete ricevuto sono tutte unidirezionali come posizione, nessuno non vuole gli immigrati in Italia, ma quello che tutti dicono è che gli immigrati devono entrare con percorsi legali. Quindi ok, non ha risposto alla mia domanda, che cosa farete, qual è la vostra strategia, se il governo rimarrà lì dov'è? Mica si può fare campagna elettorale permanente, no? Ma noi non facciamo campagna elettorale permanente, noi facciamo opposizione, e il governo tra l'altro ci dà anche grandi assist per farlo, perché fanno una stupidaggine, un errore al giorno. Abbiamo la situazione dell'Ilva, dove hanno creato un casino pazzesco che rischia di farci perdere 20.000 posti di lavoro in Italia. Abbiamo questi annunci sulle sanatorie per l'immigrazione e il fatto che hanno detto chiaramente che vogliono mettere mano ai decreti di sicurezza, perché c'è tutto un sistema delle cooperative che deve tornare a lavorare. Vogliono fare una riforma della giustizia, che è una riforma assolutamente illiberale, che punta a stare... Vabbè, ma lì avete quindi... un alleato dentro al governo. E qui vengo all'ultima domanda e poi mi taccio. Pinotti, che cosa significa che Renzi si sfila in Puglia e Calabria e propone candidati diversi? Renzi si sfila sulla prescrizione e vota insieme a Forza Italia, sulle concessioni autostradali si oppone alla revoca, quindi ha una posizione che sta con l'opposizione e non con la maggioranza. Significa che c'è nella maggioranza un problema serio? Significa che è la reazione di Renzi e Calenda al Germanicum, che con una soglia 5% metterebbe in seria difficoltà i partiti più piccoli? Ma forse un po' di tutto questo. Guardi, quando è nato questo governo, che aveva già all'inizio un percorso complicato, perché si trattava di mettere insieme forze politiche come i 5 Stelle e il Partito Democratico, che fino a un attimo prima si erano contrapposte, come oggi la Lega, che invece prima al governo si contrappone ai 5 Stelle. Quindi viviamo una fase politica molto complicata. Ma nel momento in cui avviene la scissione di Renzi, la mia preoccupazione è aumentata, perché non c'è dubbio che a quel punto il bisogno di distinguersi diventava forte, e non più soltanto a due, diventava un bisogno anche di una forza che doveva applicarsi una propria identità. Quindi io penso che c'è un po' tutto quello che lei ha detto, cioè da un lato c'è un bisogno, cioè oggettivamente i sondaggi per quello che valgono, però ad oggi non premiano particolarmente questa nuova formazione, quindi c'è un bisogno di far vedere che ci si è con le posizioni, ci saranno anche delle convinzioni, io non discuto anche rispetto a questo. Mi colpisce il fatto però che si decidano in battaglie fondamentali, dove oggi di fatto comunque è capire se deve vincere la destra di Salvini o l'altro fronte, si scelga in regioni importanti di proporre candidati terzi. Questo diciamo indebolisce oggettivamente il fatto che comunque ci si possa sentire una coalizione in tutti i territori. Allora, grazie a Roberta Pinotti, senatrice responsabile di sicurezza del Partito Democratico. Grazie a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, per essere stati con noi. E grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, ci hanno mandato messaggi WhatsApp, ci hanno telefonato. Insomma, siamo riusciti a far sentire tutto quel che potevamo. Cara Maria Latella, ci risentiamo e ci rivediamo domani alle 8:20, come sempre. Per tutti gli altri ascoltatori, ci risentiamo ovviamente alle 6:30 di domani mattina. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione. Grazie a Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Dunque, a domani alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao.